Ti è mai successo che una persona cara ti parla di un suo problema molto grande, molto pesante e tu sei molto in imbarazzo perché mentre ti sta parlando dentro di te pensi: accidenti, ma questa cosa che mi sta dicendo è veramente pesante, importante, ma io non so proprio come rispondergli, non so proprio come aiutarlo, non so proprio trovare le parole giuste per dirgli qualcosa. Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare che l'ascolto già di per sé è un dono grande, inestimabile. Quando io parlo è come se donassi una parte di me stesso, ma quando io ascolto dono all'altro proprio il mio io indifeso, disarmato, gli dono tutto il mio cuore. Ecco perché a volte è più difficile ascoltare che parlare. Quando noi ascoltiamo in modo profondo, indifeso, disarmato, senza preoccuparci di quello che potremmo rispondere, è come se stessimo offrendo alla persona davanti a noi un foglio completamente bianco, sul quale lei può scrivere. Finalmente si trova davanti un foglio bianco sul quale può riversare il suo problema, il suo pensiero, le sue riflessioni. Quando hai un problema che ti sta facendo soffrire, preoccupare molto, hai mai provato a prendere un foglio di carta e iniziare a scrivere così in modo libero, fluente, i tuoi pensieri, tutto quello che ti passa per la testa riguardo a quel problema? Provaci, ti renderai conto che è una cosa molto efficace, perché già il fatto di mettere per iscritto, nero su bianco, i nostri pensieri ci aiuta a renderli più oggettivi, ci aiuta a pensare in modo chiaro al nostro problema, in modo esplicito. È come se gli dessimo una forma più compiuta, gli dessimo una logica. E molto spesso già soltanto il fatto di scrivere, già quello ci aiuta molto, perché ci permette di mettere meglio a fuoco il nostro problema. Ecco perché l'ascolto è un dono così grande che noi possiamo fare all'altra persona, perché mettergli davanti il foglio bianco del nostro ascolto gli permette di tirare fuori in modo più esplicito quello che sta pensando. Lo aiuta a chiarirsi, a farsi un'idea più chiara e magari anche ad intuire già una soluzione. Quindi il nostro pensiero mentre ascoltiamo non deve essere quello di pensare già a che cosa risponderemo. Piuttosto dovremmo pensare: ecco, io adesso gli sto dando la possibilità di schiarirsi le idee. Del resto, non è mai accaduto anche a te di sfogarti con un amico? Già ti senti meglio prima ancora che l'altro ti dica qualcosa. Anzi, magari tu in quel momento non senti neanche il bisogno che l'altro ti dica qualcosa, ma già di per sé hai fatto un passo avanti nella gestione del tuo problema. Ok, mi dirai, ma nel momento in cui l'altro poi effettivamente ha finito di parlare, io mica posso stare semplicemente zitto, qualche cosa dovrò pur dirgli, qualche cosa dovrò pur rispondergli. È proprio vero, in certi casi è veramente difficile trovare le parole, come quando magari ti parla, non lo so, di una difficoltà insormontabile sul lavoro, ti racconta di un lutto che gli ha tolto il fiato, o magari di una relazione che sta andando in frantumi. In quei casi, quindi, che cosa puoi fare? Non ho ricette miracolose, assolutamente, però mi sento di suggerirti almeno queste tre cose. Primo, cerca di fargli capire in qualche modo che hai tentato di capire quello che lui sta vivendo. Cerca di fargli capire che lo hai ascoltato davvero. Prova magari in altro modo a ripetergli quello che lui ti ha detto. In questo modo lui si renderà conto che le sue parole hanno trovato veramente una risonanza, un'accoglienza, uno spazio dentro di te. Secondo, se davvero non sai cosa rispondergli, puoi dirglielo senza imbarazzo, ma la cosa importante è che tu non sposti l'attenzione da lui, dal suo problema, al fatto che tu senti in quel momento di avere un problema, al fatto che tu ti senti in imbarazzo perché non sai che cosa rispondergli. Lascia al centro lui, non fargli pesare il fatto che tu in quel momento non sai che cosa rispondergli, non metterlo troppo in luce in modo eccessivo. Ad esempio, guarda, non so veramente che cosa risponderti, mi spiace tantissimo, mi spiace molto di non sapere proprio come aiutarti. Ecco, una frase del genere rischia di mettere al centro te e il tuo disagio. Allora molto meglio una frase più semplice del tipo «Grazie per avermene parlato, ti porto nel cuore e lo sai che se c'è qualcosa per cui posso aiutarti, sarò felice di farlo». Terzo, se entrambi siete credenti, puoi anche assicurargli che porterai il suo problema e la sua sofferenza davanti a Dio. E già questo di per sé, per molte persone credenti, è già una grande consolazione, una grande forza. E comunque ricorda sempre, l'ascolto non è mai tempo perso. Quando tu sei riuscito ad ascoltare una persona in modo profondo, le hai già fatto un regalo inestimabile.